Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Ed eccoci qui, e con quella di questa sera approdiamo alla puntata numero 276 del Soundcheck, ovvero la prova del suono di Radio 24, e ancora una volta presentiamo al gentile pubblico della nostra radio preferita la presenza femminile ormai costante, quella di Silvia Barba. Buonasera Gegè, buonasera a tutti. Buonasera a te Silvia, ho ricevuto anche diverse email che approvano questa scelta di vita del nostro programma. Mi ha detto addirittura un nostro radioascoltatore che ha scritto all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it: finalmente, dopo una stagione intera con quel calabrese di Francesco Tromba, arriva la voce suadente di Silvia Barba. Di Silvia Barba. Grazie, non ci credo molto, però voglio vedere se proprio sarà vero. Invece, sorpresissima da questo albero di Natale qui nello studio. No, dai, non è bello? È meraviglioso, ma come hai fatto? Beh, come ho fatto? Ho collaborato. Non l'ho fatto personalmente perché mia figlia ha il compito importante di realizzare due alberi di Natale qui nello studio. Questo è quello piccolino, poi quello più grande è su a casa. Immagino quello grande cosa sarà, se questo già è piccolino. No, è solo più grande, è uguale, guarda. Bellissimo. È solo più grande perché qui non entra, come vedi, c'è il controsoffitto per isolare l'ambiente acusticamente, quindi non potevo metterlo in altezza. È già pieno di regalini. Beh, pieno, c'è qualcosa, c'è anche il tuo regalino. Davvero? Sì. Che dalla forma... voglio dire, non svelo nulla. Beh, se dico che sembra un CD. Ci sono 10 regali, 3 sono libri e gli altri sono tutti CD. È il mio regalo preferito. E sono i regali più graditi. Da sempre oramai, no? A Natale non regalo stupidaggini. Okay. C'è un mio amico che è specializzato, ma magari lo diciamo dopo. Allora, invece andrei subito alla musica, perché questa sera possiamo consigliare qualcosa da acquistare e qualcosa anche da rintracciare attraverso internet, perché non credo che esista ancora una discografia fisica di Drew. Of the Drew. Faccio fatica a pronunciare questo nome, che non è il nome di battesimo del leader, ma il nome d'arte di questo formidabile bassista della nuova generazione, polistrumentista e anche un bel ragazzo biondo, colorato nell'abbigliamento, anzi di più, fluorescente potrei dire. Esatto, si veste in questo modo così particolare, anche il suo basso è così particolare, questo verde elettrico fluo. Sì, sembra un vecchio jazz Fender, però completamente ripittato, non so che cosa abbia fatto. Comunque un organico interessante per Drew of the Drew. Lui credo che sia, non so se è di Miami, comunque è nato in Florida. Originario della Florida, sì, però stabilitosi ormai a New York, a 23 anni è già... Ha già un bel seguito, Drew of the Drew, già, che ha fatto delle scelte di vita importanti musicalmente parlando. Intanto quella di chiamare la bravissima Joanna Titters, già voce de mezzata, una voce super sexy, calda, che regala a Drew of the Drew quel tocco di soul che non deve mai mancare oggi. E poi l'appeal ritmico di due batteristi, non uno, ben due, J.P. Bouvet e Ian Barnett. Ecco, il tutto completato da una presenza femminile che è la chitarrista Maddie Rice. Ecco, vedi che le cose le sai. Allora andiamo ad ascoltare Drew of the Drew con Joanna Titters come vocalist. Il brano a me piace un sacco, si chiama Compatible, qui al Soundcheck di Radio 24. Compatible, il titolo di questo brano creato da Drew of the Drew, band di riferimento del, come dire, del suono underground tipico di New York di oggi, con la voce di Joanna Titters, e questo è un bel regalino che potete consigliare magari ai vostri nipoti. Perché ai vostri nipoti? Perché non c'è il CD, cioè c'è. È difficile trovare la discografia fisica di Drew of the Drew, quindi soltanto i vostri nipoti saranno abili nell'andare a rintracciare via internet la musica di Drew of the Drew. Oppure regalate un biglietto aereo e E ve le andate a vedere New York. In concerto. E questo non è male, perché mi sa che nel periodo di Natale senz'altro si esibiscono in qualche club lì a New York. Ecco, se tu dovessi consigliare musica da recuperare solo ed esclusivamente via internet. Beh, anche il nostro Tom Misch. Si deve rintracciare. Quando parli di Tom Misch, gli occhi brillano. Ma che cosa mi sta succedendo? Senti, intanto questo ragazzo, questo è giovane proprio, cioè 20 anni. È troppo per me, troppo giovane per me. Io sono già un po' più âgée rispetto a lui, però mi piace, ha una vocalità che mi piace e poi è un creativo, quindi voglio dire, e poi è a Londra. Sì, ma non è credo comunque che una donna contemporanea con la tua mentalità si possa fermare di fronte ai limiti dell'età, no? Guarda, lasciamo perdere. Allora, che vuoi fare? Vuoi presentare Tom Misch? È bellissimo, l'abbiamo già passato tante volte e ci piace proprio questo Beat Tape 2, che non si trova evidentemente sull'iTunes italiano, ma lui qui è con Jordan Rakey e il brano si chiama Wake Up This Day. Soundcheck, il suono della musica. E in questo periodo ci sta tutto, Lean on Me, un brano che poi col tempo è diventato un vero standard del gospel contemporaneo, brano scritto e qui interpretato dal suo autore, ovvero il formidabile Bill Withers, musicista, cantante e soprattutto songwriter ancora in attività, anzi in questo momento si gode proprio il grandissimo successo che ha ottenuto con questo tributo alla Carnegie Hall che è stato realizzato da grandissimi artisti nella prima settimana di ottobre. Tantissimi artisti al Carnegie Hall, appunto, tra cui Ed Sheeran, che è l'artista del momento, Gregory Porter, Branford Marsalis, il tuo preferito, D'Angelo e Anthony Hamilton, che poi è l'erede naturale di Bill Withers. È anche forte questa cosa che Bill Withers si è ritrovato alla Carnegie Hall, teatro difficile da domare. Beh, anche per un artista accreditato lì negli Stati Uniti, teatro che ha un protocollo rigidissimo proprio di comportamento. Io ci ho suonato la Carnegie Hall, te lo voglio dire. Davvero? Sì. Quando? Mi è capitato anche questa occasione. Vabbè, poi te lo ridirò. Dai. E fatto sta che è molto bello, perché lui ci suonò nei primi anni 70, proprio credo dopo la pubblicazione del suo secondo album, in un periodo molto complicato e difficile per gli Stati Uniti, perché c'era la guerra del Vietnam. Infatti fu un concerto emozionante, perché affrontò una platea fatta soprattutto di genitori, parenti e famiglie di soldati in guerra. Eccolo qui, allora celebriamo anche noi Bill Withers con un suo successo Lean on Me, andiamo direttamente al suo erede, quindi abbiamo chiamato in causa certo Anthony Hamilton, molto richiesto anche Anthony Hamilton, che qui partecipa al progetto Experiment Black Radio volume 2 di Robert Glasper con Yet to Find. Soundcheck, il suono della musica. Ebbè sì, è l'erede naturale di Bill Withers, il meraviglioso Anthony Hamilton, in una vecchia composizione, un brano di qualche anno fa, intitolato Sister Big Bones, che ovvero le ossa di quella grande sorella, anzi le ossa grandi di una sorella. Devo dire che questo pezzo è dedicato proprio dalla A alla Z intorno alla Q, diciamo alle chiappone di una sorella che Anthony Hamilton evidentemente ha frequentato per in un radio certo non periodo. Ti vedono, ma stai facendo delle mosse. Beh, che... certo, sto descrivendo no, le dimensioni anatomiche della sorella che ha frequentato Anthony Hamilton. Anthony Hamilton, diciamolo pure, è un bravo ragazzo, un ragazzo casa e chiesa. Ecco. Perché è un bravo ragazzo? Ma perché uno che frequenta il gospel non può che essere un bravo ragazzo, insomma, anche se poi è molto amato dagli appassionati di contemporary R&B, hip hop, collabora con musicisti di jazz, però insomma si sente che il suo background è quello della chiesa. Anche se nel 2002 lui ha partecipato ad un brano insieme a Tupac. A Tupac. Insomma, troppo bravo ragazzo Tupac. Ma se ha partecipato, nel senso perché è un autore, quindi scrive testi bellissimi ed è anche un eccellente compositore. Talmente bravo il nostro Anthony Hamilton che infatti un'altra sorella nera non si è lasciata sfuggire l'occasione di portarselo in tournée e non so poi in turno che cosa abbiano combinato. Non vogliamo sapere. Beh, fra fratelli e sorelle succede di tutto, no? Sempre per motivi artistici. Cioè, solo per motivi artistici. E allora, la sorella in questione è la bravissima Jill Scott, anche lei una poetessa, una grandissima autrice, quindi fra intellettuali se le intendono. Eccoli qui, Jill Scott e Anthony Hamilton in un successo, brano intitolato So In Love, che ha venduto tantissime copie, è stato presente per molte settimane nelle classifiche. 18 settimane, ecco, su Billboard. Primo in classifica? Primo in classifico nella classifica Urban Adult Contemporary Chart. Allora, direi di andare a So In Love per poi passare direttamente a cose sicuramente più serie, ovvero l'informazione di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Eccoci qui pronti per la seconda parte del soundcheck dal Groove Master Studio, sempre con Gege Telesforo e Silvia Barba, che cerca di scrutare sotto l'albero di Natale e cerca di capire che cosa c'è nel suo pacchetto. Avrei capito che è un CD, te l'ho detto, è difficile. Però sono curiosa di sapere anche le altre cose. Non ti dico esattamente cosa ti ho regalato, però non ti nascondo che a Natale mi piace regalare antologie e grandi classici. Bene. Bene. Mi dai anche un'idea per i miei di regali che ancora devo terminare a fare, proprio perché di solito si arriva sotto sotto le feste, non so mai cosa regalare. No, io non li ho fatti, credo che ci andrò la prossima settimana e andrò in un bel negozio di musica a comprare dischi e libri. Continuerò, perché qua ce ne vedi alcuni. Però, ma io insomma, ho paura dei regali inutili, sai, di quelli che non ci fai niente, che scarti. Ho il terrore dei regali inutili e ho fatto regali inutili per anni, soprattutto quando andavo a fare acquisti con il mio amico Renzo Arbore, ecco, che è famoso perché è un esperto di regali inutili e stupidi, di sciocchezzuole. Sì, che poi assembla e conserva in questa stanza sotto chiave, dove c'è una sorta di bazar di pacchetti e pacchettini che poi ricicla addirittura dopo 10 anni. Quindi, all'occorrenza, li prende e ti regala questo pacco, lui neanche che cosa c'è dentro. Una volta, non so perché, ma mi ha regalato un salvadanaio a forma di matrioska russa, una cosa orrenda. Che non si sa perché uno debba comprare una cosa del genere. Però, vabbè, originale, Renzo, io dai, ti saluto, comunque ci vediamo anche noi, Renzo, fra qualche settimana per farci gli auguri. Allora, dicevamo dei regali di Natale. Sì. Perché non regalare Woman, che è il titolo di questo album bellissimo della poetessa del groove e del soul, che è Jill Scott. Il brano si intitola Prepared, qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. E questo è un altro bel regalo, ecco, con questo CD si fa sicuramente una bella figura e tra l'altro lo troverete il CD nei migliori negozi di dischi, si intitola Blood, perché questa ragazza fa sangue, si chiama Lian Lavas e, come dice il titolo di questo brano, non potete fermarla, unstoppable Lian Lavas con il suo talento e la sua bellezza. Ti piace, si vede che ti piace moltissimo. Ma certo, come fa a non piacere Lian Lavas, una ragazza fisicamente interessante, molto elegante, elegante, bravissima, adesso è tornata dagli Stati Uniti, grandissimi consensi e io non vedo l'ora di vederla dal vivo anche nel nostro paese. Speriamo presto. Un altro regalo che si può fare e anche questo è un CD che trovate nei negozi di dischi, perché la produzione è italiana, per quanto invece l'artista, il musicista in questione, è americano puro sangue, uno dei migliori contrabbassisti e bassisti in circolazione, già in tournée e discograficamente presente negli album del meraviglioso Roy Hargrove. Vi stiamo parlando del bravissimo Amin Salim, e quando presento Amin Salim sono felice, uno perché siamo amici, due perché sono amico della fidanzata che è italiana, tre perché sono amico anche del suo producer che è Giandomenico Ciaramella, che produce dei progetti molto interessanti, e questo è davvero un progetto. E poi dal nome, The Groove Lab, non potevamo non presentarlo. Groove qua. Lab, il titolo di questo album del bravissimo Amin Salim con Mavis Swanpool in For My Baby al Soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. Uno standard del gospel scritto da Sam McCreary, I'll Just Keep Holding On, nella versione del chitarrista Phil Upchurch in buona compagnia, perché in studio di registrazione, tra l'altro uno studio bellissimo, ovvero il Paisley Park di Prince lì a Minneapolis, nella metà degli anni 90, per la produzione di Ben Sidran, Phil Upchurch convocò questa famiglia di eccellenti cantanti, ovvero la famiglia Steele al completo, dove c'era anche Javita Steele, che era la vocalist di Baghdad Café, ricordi, esatto, no? Allora, scusate, Phil Upchurch qui al soundcheck di Radio 24, ecco, già 20 anni fa anticipò il fenomeno degli ultimi anni, quello di riportare in auge la tradizione del gospel, cosa che fanno anche i musicisti di jazz e R&B di oggi. Beh, perché spesso provengono proprio da quella tradizione lì, si sono fatti le ossa in chiesa quando erano piccolini, suonando e cantando. È una questione di DNA, mia cara Silvia, ce l'hanno nel sangue. Si sente. Si sente e si vede, perché poi li vedi anche, no? Quando sono su quel bel palco, felici, sorridenti, con quelle voci spiegate, fanno venire i brividi. Anche a noi italiani che ormai da 15 anni a Natale andiamo a sentire i concerti di gospel. Ma perché solo a Natale qui in Italia? Beh, a Natale perché a Natale i roster artistici dei management hanno sempre 3-4 band gospel da far circuitare, e quindi noi li vediamo a Natale. Negli Stati Uniti li vedi tutto l'anno. Allora, visto che parliamo di gospel, consiglierei ai musicisti che vogliono apprendere ritmicamente questo tipo di nozione di ascoltare un brano intitolato Could Have Been del repertorio di Reverend Kirk Franklin. Soundcheck, il suono della musica. E dal gospel siamo passati agli spiritual, con un classico del repertorio come Glory, affidato però alla vocalità contemporanea e infinita di Bobby McFerrin, che incontra un altro meraviglioso talento, quello della bellissima Esperanza Spalding. E siamo ai saluti, mia cara Silvia. Già. Termina quest'altro soundcheck, poi domani alle 19:15 io ritorno in studio per realizzare quello più jazz, poi noi ci rivediamo sabato prossimo, e insieme, mano nella mano, mi accompagnerai alla Casa del Jazz di Roma, perché è iniziata la stagione dei concerti anche per me. E suonerai lì? Suono lì con il quintetto, naturalmente dopo il soundcheck. Finalmente ti riascolto dal vivo, sono contentissima. Bene, allora vi lascio, sai che ho scritto anch'io un pezzo vagamente gospel, perlomeno la mia visione gospel, con un bel coro americano di Washington DC, eccolo qui, lo presento in chiusura, si intitola Available for Wedding, disponibile per il matrimonio, c'è un senso ironico in questa composizione gospel. Sentite il pianoforte di Domenico Sanna in sottofondo con la marcia nuziale. Vi saluto, ci risentiamo domani 19:15 sempre su questi schermi con il soundcheck, la prova del suono. Ciao a tutti.